fore Napula non venga palpite la mice femmine nazion all'aria che libertà. Strade nove, gente nove, parlatura forastera, pura luna vega sera, maglia Napula spunta. Sta lontano volare e na uccella diventa. Se scetene tutte chi ottiennere ricorde Napoli chi agnene dicene te firesta e che ne sai che a te va bene chi te dà turmiente pene se cagnata te va bene che ne sai te firesta tendemente volare una uccella diventata.